Allora, io scrivo per andare, allora, in Lomellina, perché Mede in Lomellina. In Lomellina le notti che sballottano tra rane e fossi c'hanno il vizio dell'eterno. Così doveva certo sembrare appena attraversato il Ticino, alle spalle Mortara, quella terra di risaia che ti impesta fino al Sesia. Eran partiti nella quieta sera milanese dalla stazione di Porta Genova. Corsico, Gaggiano, Bià, Vigevano, la vecchia Lombardia che dorme sotto il tanfo del motore, che si inoltre per Cascina, un odio antico. Non appena varchi il muro, passi il fosso del Naviglio e sul muso ti si stampa la gran piana longobarda, tanto vasta, interminata, ed acque, d'alberi e nebbie delittuose, quale solo l'incanto di un rito pagano può evocare. Carica, la fida rivoltella tendeva paziente nella tasca del gilet. Il bel Saint-Ain, che sarebbe Sante Pollastro, la ricambiava della massima cortesia. Che una volta fissi gli occhi sulla risaia, i boschi, le paludi, una fervida malinconia l'aveva colto, un sentore, un dubbio cupo, l'attesa che non sa, la falce, sì, la cruda malora. Qui, nella barbarica Padania, tutto accade in un lampo che ti schianta. Tra l'altro noi abitiamo a pochi chilometri, io abito a pochi chilometri da Garlasco, cioè, no, per dire. No, tutto accade in un lampo che ti schianta, cioè nella normalità poi. No, questa è. Vabbè, poi ce ne sono altri. Io l'ho conosciuto, Sante Pollastro, l'ho conosciuto. Ma no, ma no, no, io non vado mai a cercare nessuno, sono gli altri che mi trovano. Io purtroppo ho anche sta sfiga qua. No, no, io sono andato, io ho degli amici a Novi, Novi Ligure. E un giorno sono andato lì tanti anni fa, nel 79, ero giovanissimo, sono andato lì e entrando in un'osteria mi hanno detto, uno mi ha detto, guarda, sai chi è quello lì? Io non so, non so. È Sante Pollastro. Ed era un vecchio, pochi mesi dopo morì. Era un vecchio magro, alto, molto per i cazzi suoi, insomma. E io sono andato lì e gli ho detto che, appunto, ma sei tu? E lui ha detto, sì, abbiamo scambiato quattro chiacchiere. Io probabilmente, essendo molto giovane, non ho capito di trovarmi di fronte a un personaggio che ha fatto un pezzo di storia del nostro paese, un pezzo anche importante, anche se sottaciuto chiaramente. Poi dopo anni e anni, facendomi sempre raccontare storie dai novesi su Sante Pollastro, ho scoperto pian pianino tante cose. Poi nel 92 è uscita la canzone di Francesco De Gregori, che secondo me ha reso un pessimo servizio alla memoria di Sante Pollastro. De Gregori è un democratico, quindi cosa bisogna aspettarsi, insomma? Cioè, nel senso che lui identifica Sante Pollastro come lui fa il confronto tra Sante Pollastro e come si chiama lì? E Girardengo. Girardengo. Chiaramente nel confronto Sante Pollastro ci perde e Girardengo è il grande campione, quello che partendo tutte e due da una situazione di disamore, di aggressività, di fame, di miseria. Uno dà una risposta positiva e l'altro dà la risposta distruttiva, negativa. E allora lui dice, ecco, Sante Pollastro, chissà come mai ti sei trasformato in un crudele bandito. Primo, Sante Pollastro non fu mai crudele. Non fu mai crudele. Eh? Questo qui sta nel novero della vita. Diversi regi No, carabinieri. no, ma a parte no, no, vabbè, ma no, ma è giusto. No, crudele, crudele perché ero una persona, qui lo posso dire visto che non sono al Rotary Club, ero una persona di una generosità straordinaria. Di una generosità straordinaria. Aiutato sempre tutti, a Novi Ligure, tutti dicono bene di lui perché lui andava a rubare e poi dava le cose alla gente, cioè proprio tipo Robin Hood. A volte esistono i Robin Hood, cioè, tipo a volte. Cioè. No, ma a parte, poi chiaramente voglio dire, il discorso della violenza. Lui era uno che trovandosi davanti ai carabinieri, sparava, ammazzava. Ha ammazzato due carabinieri a Mede, ha ammazzato tre poliziotti in via General Govone, no, in via General Govone qua a Milano, proprio in una... Però, parliamoci chiaro, quella era... Era l'incerto dei tempi, voglio dire. Cioè, era una situazione per cui, veramente o io o te, c'era un codice, diciamo così, cavalleresco, che prevedeva una certa situazione. Io sono un ladro, tu sei un carabiniere, io faccio il mio mestiere, tu fai il tuo. Chi è più forte vince, punto. Quando io ho detto che non mi metto da un punto di vista morale, non me ne frega niente, perché io credo che la vita debba anche essere vissuta, cioè, io... Per quello che mi riguarda interpreto la vita come un semplice agire di potenza vitale, insomma. Poi ognuno fa i suoi conti alla fine dei suoi giorni. Cioè, questo a me interessa, cioè, a me non interessa ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Non devo essere io a dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Tu hai fatto qualcosa, l'hai fatto. Boh, se hai offeso qualcuno, questo qualcuno ti verrà a domandare conto di quello che hai fatto. Se hai fatto del bene, probabilmente, boh, ti sarei ringraziato, ma io non sono giusto o sbagliato, mi interessa no sta roba qui. Sant'Epollastro ha fatto una vita straordinaria, eccezionale, per me, io che sono un po', cioè a me piace molto, vabbè, sono un po' stirneriano in queste cose qua, io lo vedo proprio come l'unico, come la sua, tant'è che lui ha avuto anche, nella sua banda c'era anche Renzo Novatore, che è stato un anarchico illegalista, insomma, che fece poi la scelta delinquenziale, si accodò, andò da Sant'Epollastro e poi fu ucciso in uno scontro fuoco. Ma lui era anarchico? Ma lui non era, cioè allora, secondo me i veri anarchici non dicono mai di essere anarchici. Okay. Perché se uno dice sono anarchico, già mo forse... Lui ha avuto rapporti col movimento anarchico, ha finanziato il movimento anarchico, ha finanziato i fogli libertari, ha finanziato il... Adesso io li cito qui, insomma, faccio un po'... Ha finanziato i fogli libertari, ha dato i soldi, ha finanziato il movimento degli arditi del popolo, che non so se qualcuno conosce, arditi del popolo. E, però lui era un istintuale, cioè viveva, era un anarchico del fatto, insomma, diciamo, di Semin Shiva, non si poneva il problema dell'ideologia, giustamente faceva ciò per cui era nato, insomma, cioè, metteva a frutto il suo genio, secude fa. Ma non hai quasi mai parlato in dialetto alla fine. E allora? Capisce no? No, che poi lui scriveva cose tipo... Cazzo, io non so il milanese, però. E allora? Dai, leggimi questo slego, tutto di fila, però. Cos'è? L'inizio di Ceruti e Pita. Ah, io vabbè, ho scritto una storia... No, ho scritto una storia su Ceruti, Jacopo Ceruti, che è detto il pitocchetto. Che secondo Sgarbi. No, è uno dei principali pittori del Settecento Lombardo. E la caratteristica del Ceruti sta in questo. È stato il primo pittore a descrivere la realtà di Pitoc, cioè dei barboni, della gente umile, misera, della Milano del Settecento. Cosa che invece... situazione artistica che sta tutta nella scia del realismo, del verismo lombardo, che poi ebbe nella poesia Al Porta, ma nel Novecento anche il Tessa, insomma, Allegri, il Dì di Morte e tutto il resto. Cioè c'è una scia artistica in Lombardia che comunque attraverso i secoli esprime con modalità diverse un attaccamento alla realtà. E io ho voluto scrivere una cosa, vabbè, un po' scherzosa, su Ceruti e il Pitoc, Jacopo Ceruti. A lui piace molto l'inizio, mico capì niente, mi la leggi. Allora, perché E questo è il suono. È il suono, però vabbè, se poi capisce no, è il suono. Capisce? Ognuno ha il suo amor. Quanti santi e madonne, catafalchi di luminarie e paciam santificati ingrugnati sui muri, sulle putrelle gocciolanti, ai canton de vicule streceu. Quanti bagai, bambini a piedi nudi e sgarbelà sui muretti della via Arena, a cercà la Bunaman, l'insulto quieto di una carità, tra la darsena ticinese San Lourens, e una faragine ulcerosa di pezzenti, mercadanti de immagini sacre, fora Sant'Eustorch, tra Porta Snesa e i Pioche.